Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on. Luigino Di Maio, il Chierichetto. Fico il Moscio, ovviamente, e l'Emergente di Battista, detto Dibba, il Gallo Cedrone. Diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe, che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti. Questi tre si odiano, si baciano, si abbracciano, sono falsi come Giuda. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro, falsi come giù, però in pubblico baci a baci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Una di quelle situazioni in cui Vincenzo De Luca la tocca piano, come si suol dire. Ci siamo, signori, grazie, sono qui, sono ritornato, volevo mandarvi, io ricambiare un abbraccio, mi sono arrivati tantissimi abbracci, tanti pensieri in questi giorni, vi ringrazio, non posso rispondere a tutti quanti, lo faccio qui. Grazie a tutti voi, cari amici. Allora, questa è 24 mattino, sono le 6:34 minuti, iniziamo con un De Luca che ha fatto anche molto arrabbiare quelli del Movimento 5 Stelle, per questo vi possono ammazzare tutti. È comparso nella sua TV, l'Ira TV, in queste interviste che fa stile così Ceausescu in Romania, vi ricordate, no? Questi messaggi. Beh, ma sono fantastici, sono mediaticamente fantastici, vanno presi. Ce ne vorrebbe uno al giorno, bisognerebbe fare l'editoriale di Vincenzo De Luca, così dica quello che vuole. E lui così, tre mezze pippe. Cari amici, c'è Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione. Mi raccomando, io voglio fare ancora un appello a tutti coloro che ci sentono dall'estero, gli ascoltatori dall'estero, perché li coinvolgeremo presto nel nostro buongiorno del 24 mattino, nel nostro Parlamento. Se ci ascoltate dall'estero, scriveteci una mail, la cosa più semplice per rintracciarvi poi è 24mattino@radio24.it. È semplice, eh? Allora, che succede? Si riparla di legge elettorale in maniera incredibile. È la legge elettorale, non si parla d'altro. Ieri Renzi ha parlato, la festa dell'unità, è attaccato da Lema. Ed ecco, allora, adesso è comparso il Provincellum. Giuro, il Provincellum, mamma. Però questa è la migliore, questa qua me la sono segnata. Dov'è che è? Me la sono tenuta da parte, me la sono già persa. Vabbè, comunque l'ho trovata sul Giorno, giuro, è sulla legge elettorale così. Giorno. I giovani turchi propongono il sistema greco in Italia. Giuro, non chiedetemi di più alle 6:36 minuti. I giovani turchi propongono il sistema greco. Tanto io so già che c'è uno che adesso ci spiegherà tutto, dirà che non ho capito una minchia, che insomma è Marione Adinolfi, è il sistema elettorale. Buongiorno. Come va il campionato? Quando inizia? La mette dentro ancora Higuaín! Cominciate. Ma così è illegale veramente. Così è illegale, vedi che ruba. Vedi che ruba, è illegale. Che la gira. Vedi che e l'Udinese trova il gol del vantaggio. La notizia del giorno, la nuova grande prestazione della squadra più forte del mondo. Ho portato mio figlio Mattia. Basta, ti prego. Basta. A Mattia, San Siro. Diventa della Juve, Mattia, ti prego. Allora, c'è già lo zio che cerca di farlo diventare della Juve, ma non c'è riuscita. Ho portato Mattia a vedere Milan Udinese e ha preso il gagliardetto. Ha preso il gagliardetto dell'Udinese, ma che è bianco e nero almeno. No. Del Milan. Ti sbagli di grosso. Allora, insieme a Marione Adinolfi ti informo che stai a meno 6 dopo 3 giornate, in prospettiva finisci a meno 60, capito? C'è questo 60 o 70? Sì. Forse pure 70, sì. Meno 6 dopo 3 giornate, questa è la dato statistico. Ma a dir la verità siamo a punteggio pieno, la Pro Sesto ha vinto anche a Legnano ieri 0-1, 2 vittorie in 2 partite, 2-1-0 secchi. Vai con la lista Pro Sesto, Mattia, ti fa Pro Sesto, va che bello. Vabbè, ti fa anche Prosesto. Siamo passati di fronte all'allenamento della Prosesto l'altro giorno, ha tirato giù il finestrino e ha detto forza Prosesto! Dai, Mattia. Cambio nemmeno per sogno. Allora, insieme a Marione Adinolfi c'è il ritorno di Vincino, che saluto con piacere. Sabato l'ho anche abbracciato, era a Milano, no, ha avuto la colpa di non annunciarsi, ma io l'ho scovato comunque e quindi ci siamo abbracciati così in Piazza Castello, giusto Vincino? Giusto. Com'è andata poi la conferenza? Benissimo, quella era la mia festa. Parlavi di disegni? No, di disegni. Sì, apposta, a Milano c'è stata la festa del disegno. Praticamente mi hanno fatto questa festa meravigliosa per la cosa più bella del mondo. No? Il Milan, no, il disegno. Il sì, disegno. È stato assolutamente, non è che io ho dedicato la vita al disegno. No? E quindi va bene, adesso lo so che forse ti scatenerai sul Movimento 5 Stelle, ma forse no. Dobbiamo aprire il Parlamento prima Mario Adinolfi. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Magari. Allora, ma glielo facciamo prendere il caffè. Il buon Marione Adinolfi ci deve spiegare in 30 secondi, dai Marione, 30 secondi. La legge elettorale, sistema greco, provinciello. La discussione è chiusa perché il 4 ottobre... Diamo una notizia servizio ai nostri latitanti all'estero che hai evocato. Il 4 ottobre la Corte Costituzionale deve decidere sull'Italicum. Senza questa decisione tutte le chiacchiere stanno a zero. E attenzione, perché per confortare questa notizia a tutti i nostri grandi ascoltatori all'estero e anche in Italia, pare che la Corte Costituzionale, soprattutto sul ricorso dei giudici di Torino, abbia messo tre punti sui quali l'Italicum potrebbe essere giudicato incostituzionale. E quindi? È stato giudicato incostituzionale il Porcellum perché c'erano le liste bloccate e c'era un problema di maggioranza abnorme. Pare che l'Italicum sia nelle stesse condizioni. E quindi che succede? Quindi si voterà col consultellum, perché la possibilità che questo Parlamento raggiunga un accordo su un modello di legge elettorale sono pari a zero. Cioè tutto sto casino sull'Italicum, poi magari lo bocciano e cade. Tutto sto casino e decade. E questa è la cosa interessante. Decade ed interviene una legge elettorale totalmente nuova, ma totalmente antica. Cioè la cara vecchia proporzionale. No, tutto chiaro, Vincino? Meraviglioso. È meraviglioso. È la legge con cui ho votato i primi 50 anni della mia vita. Quindi sei affezionato, giustamente. Assolutamente sì. Quattro preferenze, tre preferenze, un numero immane di preferenze, per cui facevo contenta di Adinolfi, facevo contento Milan, facevo contento tutti. No. E poi votavo anche uno che magari mi piaceva a me che ogni tanto su 300.000 c'erano, eh. e quindi anche se il mio partito prendeva l'1,03% accappava 4 deputati. Che bello. Di là naturalmente che se bello. I 4 per deputati la 7, 4 per radicali cambiavano il mondo, esatto. E invece i radicali adesso che non ci sono sei in difficoltà, tu vorresti ma una no, legge sono rinati, no, facciamo una cosa, Vincino, qual è la legge elettorale migliore per riportare dei radicali in Parlamento? Perché tu a questo punto quella là che è del 1946 47 48 quando è esattamente il giorno esatto non me lo ricordo, però iniziò la storia del dopoguerra in Italia, quindi la ricostruzione, il boom, tutti i grandi successi, vabbè. Mentre invece i giovani turchi che vogliono il sistema greco, tu l'hai capito, ma questi sono dei cretini totali. Diciamolo, non ho capito, no, sei turco e vuol greco, è una contraddizione in termini. E anch'io l'ho letta così, ma come, sei un giovane turco e proponi il sistema greco, già c'è qualcosa che non va, e ho girato pagina perché non volevo approfondire. Esattamente. Però sulla legge elettorale, guarda un po', e sul referendum eccetera, è tornato il Renzi di battaglia a combattere contro D'Alema. Questa volta ha fatto anche una cosa pare gravissima, cioè l'ha anche un po' imitato leggendo un brano del libro scritto da D'Alema, che poi forse non è neanche stato scritto da D'Alema, c'è un giallo nel giallo. Ecco Renzi. Scrive D'Alema. Occorre a nostro avviso associare una riforma federalista a un superamento del bicameralismo perfetto. Una sola camera politica, la riduzione del numero dei parlamentari, una camera delle regioni, un capo del governo indicato dai cittadini, e questo non l'abbiamo fatto per evitare polemiche, perché noi poteri a premier non cambiano. A me sembra questo, poi prosegue sul modello delle grandi democrazie europee, a me questo sembra un modello di governo più forte, più efficace, europeo. Ah, forse nel finale un po' l'ha imitato, però insomma in realtà... Marione, ma che succede? Mamma mia, siamo sempre tra Renzi e D'Alema? Beh sì, è abbastanza stucchevole questa idea, però è servita alla minoranza del PD per schierarsi ufficialmente per il no al referendum. Oh. Attenzione, altra notizia di servizio. Questa imitazione da parte di Renzi ha irritato talmente tanto Miguel Cotor e Gianni Cuperlo da farli schierare ufficialmente insieme a Roberto Speranza per il no. Questa sarà il grande leitmotiv dei prossimi 85 giorni, il sì o il no il sì al referendum. Come voti Milan? Io ancora devo informarmi bene, ancora devo decidere, mi devo decidere. Deciderò gli ultimi 15 giorni, leggerò bene la riforma e poi lo comunicherò. Aver letto bene i 40 articoli della Costituzione. Mi informo un po' così, che sei a volo d'angelo, diciamo. Perché tu cosa voti? Tu lo sai già cosa voti? Che voti? Io voto no. Tu Vincino che voterai? Ma guarda, sono molto indeciso, devo dire. È una ciofeca fatta malissimo, però non lo so, non mi piacciono manco quel fronte del no così insopportabile. No, però non vederla anche tu, cioè sto contro o pro Renzi, valuta la riforma. Che ne so, 3-2 3 più, meno che meno. Ti posso dire. 3-1 vota no, cioè se non ti piace. Se 3-1 la riforma non ti piace. Dai, non è così brutto. Dipende, credo che sono vicino all'astensione. Sinceramente, ecco, non... Va bene, dai, parliamo un po' del Movimento 5 Stelle, dai, che Vincino mi devi dire qualcosa, dai. Stato un po', va bene, stanno facendo dei pasticci clamorosi, adesso Marione ci dirà a Roma nel disastro, ma non c'è un po' di accanimento, cioè non si è un po' esagerato? Assolutamente no. Hanno tentato di fargli un favore enorme, per una settimana 4 pagine al giorno a parlare di loro, no? Sì. Ma perché il problema è questo, si è persa la magia, persa la magia e non c'è un modo di riacquistare. Ma chi è che ha sbagliato più di tutti lì per ora? No, per te il problema è questo, è come Marione arriva nudo là, il re è nudo, lo guardano e dice che cazzo, che schifezza, mamma mia. Ma che c'entra in questo caso? Per dare un'immagine in magia, poi l'ho davanti, come dire, no, cioè ogni volta che Marione di qualcosa non ho capito qualcosa ha detto, mi sono dice è come vedere Marione nudo, uno lo vede e dice ma che schifezza. Se pensa alla magia, è la realtà che avanza la sua, cioè quattro ragazzetti ignoranti, come diceva l'ex sindaco di Salerno, è così, non è che non è recuperabile questa cosa, non qua. È recuperabile, perché allora, persa la magia è perso tutto. Facciamo così, andiamo a sentire il traffico, poi dopo Marione, vi lascio con questa immagine di Marione nudo che si riveste, tra un attimo ci dice come va a Roma. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico, traffico. Quattro mattino. I don't know much about my history, neck. Don't know much about biology. Mi stavo laureando nel 1995, stavo facendo Massimo D'Alema, un paese normale. Edizioni Mondadori, 10.000 lire costava. E, no, ma è un libro che peraltro vi consiglio, perché in realtà è scritto da Velardi e Cooperlo. D'Alema ci ha messo soltanto la firma e Velardi e Cooperlo scrivono bene. Ma questa è la stoccata, eh? Effettivamente, che peraltro pare vero Mariona Dinolfi al traffico. Sì, sì, no, sicuramente. Hanno scritto Velardi e Cooperlo. Non ho dubbi che questo. Sì, dai, però ti metti lì alla festa dell'Unità a dire D'Alema manco non l'ha scritto. Non è da presidente del Consiglio, diciamo, questo è forse da segretario del partito, non è da presidente del Consiglio, e questo è servito, ripeto, a costruire queste. Guardate quello che sta succedendo, cioè questi 85 giorni così pieni di cose, sì, incredibili. Il 4 ottobre succede questa cosa dell'Italicum, poi partirà tutta la tarantella che ti dovrai seguire del dibattito sulla legge elettorale, che sarà fantastico, francamente fantastico, davvero realismo magico lì sarà, in cui bisognerà impratichirsi tutte queste cose, cos'è il sistema greco, che è il nuovo sistema greco, lo hanno appena varato nuovo anche in Grecia, c'è il sistema del provincello, bisogna andarsi a studiare la legge per l'elezione dei consiglieri provinciali quando c'erano le province, pensa un po'. No, che ci sono ancora studiare. Poi però tutto cambia, la cosa divertente è che il sistema di prima lo voleva Renzi, perché pensava di essere sul PD nel 2014 che prese il 41%. Adesso quel sistema là non piace più a Renzi, ma piace molto al 5 Stelle, perché anche il 5 Stelle è molto mutevole, diciamo, nelle sue opinioni. Se si abbatte la Costituzione, però salta pure la legge elettorale. Allora che fanno i 5 Stelle? Beh, faranno veramente campagna per il no? Ma è fantastico, mi è venuto il mal di testa, ma è stupendo. Cioè, è tutto... In questi 80 giorni noi parleremo di queste cose. È meglio impratichirsi, perché parleremo non siamo solo obbligati, di questo. No, non siamo, no, questo. Non siamo obbligati. Non è che ce ne frega niente, noi se l'8 ottobre sono le elezioni d'America, eleggono Trump, questo ci interessa niente. Ci interessa il consultellum, però bisogna poi capire... Il provincellum, il sistema greco. Poi fondamentalmente alla fine di questo processo noi saremo chiamati a votare e avremo una legislatura determinante, decisiva, la prossima. Sì, però qua adesso qua. Sì, però la questione invece che ti ho chiesto di Roma, questi quattro, com'è che le definiti vicino? 776.000 voti, 776.000 voti per eleggere Virginia Raggi. Sono passati 80 giorni, sono dimostrati oggettivamente capaci di assommare il grave dramma della politica, quella di essere divisa in correnti, costellate fra di loro, quello è sempre il problema della politica, non è capace di essere decisionale, assommato a tutto questo anche un po' di imbecillità oggettiva, perché insomma fare i meccanismi per cui non riesce a fare una lista di assessori decenti è un problema serio. Qual è il reale problema? È che manca Gianroberto Casaleggio, che era uno che la lista degli assessori gliela dava preconfezionata il giorno dopo. Come qualcuno dice, Grillo dovrebbe fare un passo avanti, non un passo indietro, di lato. La dimostrazione di questo passaggio è che Grillo era un leader politico, Gianroberto Casaleggio era uno molto... Questo so che è quello che pensa per esempio Vincino, sabato Grillo dovrebbe fare una cosa, dovrebbe prendere la residenza a Roma, scendere a Roma, mettersi una bella tunica rossa addosso e fare il tribuno del popolo, e quale ogni giorno fa tutti i fori imperiali sino al municipio, la Ecole ritorna indietro e raccoglie tutte le indicazioni, ogni giorno, come quando nuotò, fece finta, perché è tutta una finta, quella nuotata tra Reggio e Messina, là, tra No, come no? Perché finta? Perché finta? C'era sotto il sub, che lo, tre sub che lo portavano a cosa e non si vedeva. Il bello dell'acqua è che sotto non vedi, no? Sulla barchetta c'era Gian Roberto, tutto contento. Basta. Poi, ma dovrebbe fare il tribuno, cioè andare col mantello rosso avanti e indietro sui fori imperiali. E facendo lui il tribuno del popolo. E dicendo cosa? Dicendo cosa? Popolo, ecco là. Popolo. Ho migliaia di persone intorno. È un caso mondiale che danno petizioni, lui prende la raccolta, ne prende una, sale da Virginia e dice fai questo. E poi riscende sotto a fare via dei fori imperiali e guarda, un successo stratosferico. E così si riprenderebbe questa tutto, situazione in mano. Tutto l'Europa, anche l'Europa. Altro che Trump. Vabbè, senti qua Di Maio, il tuo caro amico, caro Vincino, Di Maio, che dice sulla Raggi. La Raggi dovrebbe chiedere scusa come ha fatto lei. Ma io mi sono scusato perché ho sottovalutato un'email, ma di che cosa stiamo parlando? La Raggi però ha detto delle bugie, dovrebbe scusarsi almeno. C'è un sindaco a Roma, chiedete a lei, non dovete chiedere a me. Io ho risposto per me. Per me. Ho sottovalutato la mail, è fantastica. Ho sottovalutato la mail, va bene. No, ha detto non l'ho capita. Non l'ho capita. Domanda era: è pulita la Muraro? Risposta: no, non è pulita. E devi capire. Sì. Effettivamente, che non si capisce. Perfino Vincino l'avrebbe capita una risposta così secca e netta. Non c'è dubbio che effettivamente. Il presidente della Camera, vi ricordo, vabbè, quello, come dire, non è che gliel'hanno regalata insieme agli altri, non... Regalata, cioè, cosa? Ma sì, non è che cioè bisognava mettere uno dell'opposizione e via, e gliel'hanno data. Cioè, non c'è nessun merito essere nominato vicepresidente di qualche cosa alla Camera dei Deputati, assolutamente. Vabbè. Allora io vi devo invitare alla segreteria telefonica, mi raccomando, non ascoltate Mario Di Rolfi, 024... Attenti che poi vi trovano là di tanti, attenzione. Sì, 4652449. 92. Smettila. oppure via WhatsApp al 349-238-6666, mandatevi i vostri messaggi. E poi Marione, qua non ne abbiamo parlato, tu l'hai accennata, la questione dell'America, tanto noi parliamo del Provincellum, i giovani turchi, il sistema greco, eccetera. Lì si elegge un presidente americano tra un paio di mesi. Oh, ma che io ti giuro, l'avevo letto già in settimana, in Italia ne ha scritto Libero per primo, vabbè, in America ne parlano da mesi, ma chi c'ha Hillary Clinton? Impressionante, perché ci sono foto da mesi, appunto, io ero in America un paio di mesi fa, cose impressionanti. Tu che vai in America a giocare a poker. Certo, non sta bene, cioè la Clinton è malata, è un dato di fatto, questo è, ieri è collassata, non avesse seguito appunto i notiziari di ieri, e non è la prima volta, e non è la prima, ma è collassata davanti a un video, cioè a un telefonino che la riprendeva, e dunque questa cosa adesso è diventata massimale. Poi dopo ha detto ancora bugie, ha detto no, sto benissimo, a mezzogiorno, due ore dopo il medico ha dovuto dire no, c'è la polmonite, sono tre giorni. Comunque è giallo sulla salute di Hillary Clinton, ma da mesi. Non è mai in America il problema della salute, il problema è se tu menti sulla salute, perché ovviamente ci abbiamo avuto presidenti. Ah, più che altro che vuole diventare presidente, cioè sarà importante, purtroppo quando si è un personaggio così pubblico la salute è la salute. Questo elemento, ricordiamoci anche qui, mancano meno di 60 giorni alle elezioni americane e in Italia li discutiamo in maniera surreale, non facciamo il tipo Trump, il provincello. Che sistema elettorale c'è vicino in America? Allora, Hillary ieri ha conquistato il mio voto. Proprio questa sua debolezza, così, perché è svenuta. L'adoro così, non è che assolutamente. E poi noi di origine cristiana, sempre gli ammalati, così, tutto. E poi c'è Bill accanto, come dire, non è che c'è Bill. Nessuna c'è paura. Ma tu, perché tu quindi voti in America? Potresti sopra. No, ma ti assicuro, mi è venuto una io non l'ho mai sopportata, capito, ma come potrei? Mi è venuta una simpatia. No, di colpo, ieri l'hai vista svenire, vorresti essere lì a soccorrerla. Vabbè. Vabbè, dai Vincino, vi ringrazio. Mariona Di Rolfi, ti ringrazio, ti saluta anche Mattia, grande tifoso del Milan. Ti verrà a vedere una Juve Milan, dai, te lo porto. Juve Milan, ti porto Mattia. Finiamo con una saccocciata di gol. Dai, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo intanto che la 176esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente. E dunque siamo qui, pronti a leggere i giornali con voi, per voi, nella rassegna stampa di 24 mattino. Forza, andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, È lunedì 12 settembre, intanto i titoli ci sono, quotidiani che aprono sulle pensioni, come il Corriere della Sera, pensioni, l'anticipo è per tutti. Anche gli statali potranno lasciare prima, purché paghino. Così l'apertura del giorno, pensioni, ecco cosa cambia. E il giornale, pensioni cambia tutto, ma quelle vecchie sono salve, la riforma in arrivo. Poi la legge elettorale, l'apertura per Repubblica, Renzi proposta sull'Italicum, ma la legge rischia alla consulta. È la Corte Costituzionale che dovrà decidere il 4 ottobre su un ricorso proprio sulla costituzionalità della legge elettorale, dell'Italicum. La stampa, legge elettorale, Renzi disposti a discutere tutto. Mentre il Messaggero torna sulle pensioni flessibili, tagli fino al 18%, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano rimane sul caso Roma, Virginia pedinata e linciata. Questo è il titolo dedicato al sindaco Virginia Raggi. Per Libero invece, i falliti di Forza Italia, duello Brunetta-Feltri. Come dire, non se le sono mandate a dire in una serie di dichiarazioni pubbliche. Fallito lo ha definito Feltri e ha risposto Brunetta. Oggi c'è una lettera di Brunetta con la risposta del direttore di Libero. Ma io voglio partire dalla notizia che riguarda sempre l'immigrazione. Ci sono tanti spunti oggi sui giornali, gli immigrati, le richieste d'asilo al top come numero in Italia. Ho letto il titolo di pagina 4 del Sole 24 Ore. Rossella Cadeo racconta come l'accoglienza dei rifugiati faccia registrare un numero di richieste d'asilo, appunto, con l'Italia al secondo posto in Europa. Sono richieste d'asilo che sono quadruplicate dal 2011 a oggi. Il primato è della Germania, invece, al primo posto per domande e anche per la spesa pubblica è proprio la Germania riguardo ai rifugiati, ma al secondo posto ci siamo noi. Rossella Cadeo racconta: i flussi migratori da Medio Oriente e Africa stanno mettendo a dura prova le politiche dei governi europei e la tenuta stessa dell'Unione Europea, anche perché i partner europei proseguono in ordine sparso di fronte all'emergenza migranti, che peraltro sta esercitando una pressione squilibrata all'interno dell'area comunitaria. Intanto nel primo semestre 2016 la contabilità dell'emergenza si ferma sotto i 360.000 arrivi, di cui un terzo, 123.000, dato all'inizio settembre sulle coste della nostra penisola, proprio in Italia. Il trend 2011-2015, negli ultimi 4 anni, evidenzia l'aggravarsi della situazione. Dai 141.000 registrati nel 2011 si arriva a oltre quota 1.800.000 nel 2015. Tra l'altro il 2015, dunque l'anno scorso, ha segnato un altro record, destinato a essere battuto già quest'anno: 1,3 milioni di richieste d'asilo ai 28 paesi dell'Unione Europea. Sono il quadruplo rispetto al 2011, e in questo, ripete il Sole 24 Ore, l'Italia è seconda come numero di richieste d'asilo. Su Repubblica, Vladimiro Polchi racconta un altro approccio riguardo alla questione dei rifugiati e delle migrazioni, e cioè c'è un altro caso che si è aperto, i cosiddetti rifugiati ambientali. Non ci sono solo quelli che fuggono dalle guerre, non ci sono solo quelli che fuggono dalle situazioni economiche disperate, ora ci sono anche da registrare 6 milioni di persone che fuggono ogni anno dalle proprie case perché sono rifugiati ambientali, profughi considerati fantasma, senza tutele né protezioni, uomini e donne invisibili, scrive Repubblica, alle leggi, alle convenzioni internazionali, perché sono vittime di calamità naturali e cambiamenti climatici. Pensate che entro il 2050 saranno, con una stima, tra i 200 e i 250 milioni. Peccato che la Convenzione di Ginevra non riconosca loro lo status di rifugiato, così oggi chi scappa dalla guerra può chiedere asilo, ma chi fugge da fame o dalla sete resta senza diritti. Eppure ogni anno 6 milioni di persone emigrano a causa di disastri ecologici. Secondo alcuni esperti sarà l'emergenza del secolo, visto che saranno 250 milioni nel 2050, ma al momento non hanno diritti. Sempre sulla questione migranti, c'è da dire che invece mi ha molto impressionato l'articolo scritto da Luigi Ferrarella a pagina 18 del Corriere della Sera, perché riguarda la storia di un uomo, ma che potrebbe riguardare invece molti più uomini che emigrano, e riguarda la vicenda di un uomo sudanese sui 35-40 anni, migrante trovato senza un rene, indagine per traffico d'organi. È stato scoperto il caso all'ospedale San Carlo, il profugo forse è stato operato senza consenso. Gli hanno trovato una cicatrice a sinistra corrispondente a una nefrectomia, insomma il segno che ha subito l'asportazione di un rene, ma la sorpresa è questo: il sudanese racconta che non lo avrebbe mai saputo, accenna confusamente a una volta nella quale sarebbe stato narcotizzato l'anno scorso in Libia mentre era lì in attesa del modo di imbarcarsi in Italia, e fa dunque capire che il rene gli sarebbe stato asportato senza che lui ne fosse consapevole e dunque contro la sua volontà. Ovviamente da lì è partita dall'ospedale una segnalazione alla procura, che ha mandato la polizia a rintracciare quest'uomo per interrogarlo e mettere a verbale tutto questo, ma quando sono arrivati, tra l'altro, gli agenti del commissariato non hanno più trovato l'uomo nel centro di accoglienza cittadino dal quale si è allontanato rendendosi irreperibile. C'è anche questo giallo nel giallo in questa vicenda raccontata da Luigi Ferrarella. Il PM dice ai medici: segnalate altre situazioni simili, cioè poi va verificato il racconto, ma non sarebbe proprio l'unico caso. Allora, invece ci sono anche molti articoli dedicati alla scuola. Oggi riparte la scuola per molti, molti studenti, con ovviamente le solite polemiche. Noi parleremo anche di scuola, Radio 24 seguirà durante tutta la giornata nella programmazione le novità riguardanti l'inizio dell'anno scolastico. Avremo il sottosegretario Faraone, come abbiamo sentito, alle 8:20 in diretta con noi. La scuola parte con 4 handicap, questo per La Stampa, ma guardate, ogni giornale, Sole 24 Ore, dedica un ampio dossier relativo alla ripartenza dell'anno scolastico. Le polemiche sono sempre le stesse: il rischio della supplentite, cioè il concorsone ha portato a tanti posti ancora scoperti, soprattutto nelle scuole del nord, e quindi si farà ricorso a supplenti. C'è poi, come racconta Valentina Santarpia sul Corriere della Sera, pagina 21, l'elenco dei certificati medici, dei congedi parentali presentati da molti insegnanti che si rifiutano di accogliere il trasferimento, magari hanno vinto il concorso, sono stati spediti da una regione all'altra in Italia, e quindi hanno mandato il solito elenco di certificati. Secondo la CISL ci saranno dal 20 al 40% di buchi, cioè di cattedre scoperte. Soprattutto al nord si registrano queste mancanze di cattedre. Poi c'è un caso invece che riguarda una scuola di Bergamo, che prende subito gli onori della cronaca. La scuola non è ancora iniziata, ma una pagina del giorno e una pagina di Repubblica dedicata a questo: una preside di scuole medie che obbliga i genitori a venire a ritirare i figli, ripeto, alle scuole medie, non alle scuole elementari, a ritirare i figli all'uscita di scuola. Genitori obbligati a ritirare i figli all'uscita, polemica alle medie, pagina 21 di Repubblica, ma anche una pagina del giorno, pagina 13, eccolo qua: le scuole medie, regole da elementari, non si torna a casa senza genitori. È il diktat di una preside a Bergamo, all'istituto comprensivo Alberico da Rosciate di via Codussi, il dirigente scolastico, la professoressa Antonietta Giuliano, ha deciso di applicare la legislazione vigente in materia di responsabilità per la vigilanza, la sorveglianza, l'assistenza nei confronti di minori fino a 14 anni e dunque si prevede il ritiro degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado al termine delle lezioni. Ovviamente potete immaginare, i più arrabbiati sono gli stessi alunni che si vedono i genitori rompiballe in un'età già difficile a venirli a prendere a scuola come se fossero dei bambini o delle bambine. Poi c'è il problema dei genitori che magari anzi sono organizzati già, oh, meno male alle medie potranno uscire e tornare a casa da soli, invece dovranno scombinare le loro giornate per andare a prenderli. Insomma, un disastro, ma la preside sembra tenere duro e vedremo come va a finire. Tutti i giornalisti oggi si catapulteranno con le telecamere davanti a questa scuola per capire come andrà la riconsegna dei ragazzi e delle ragazze. Va bene, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida e appoggiate come al solito tutti gli oggetti contundenti, mi raccomando, che rischiate di farvi male. È l'apertura del Sole 24 Ore oggi, sicuramente il premio mani sul volante, perché sappiate che per le liti in tribunale, questa è la classifica del Sole 24 Ore, cioè per cosa si fa causa a livello civile, ebbene sappiate che metà delle cause dell'anno scorso, metà, 1,5 milioni di procedimenti civili su 3,3 milioni sono dedicati ad azioni civili per recuperare crediti non riscossi. Dai mancati pagamenti c'è la metà del nuovo contenzioso. I crediti non saldati sono il motivo principale per cui si va dal giudice. Allora, pagina 2, le cause civili, la metà per i debiti non pagati. Non si paga, non si paga, non si paga. Non ci sono soldi? Non lo so. Intanto non si paga. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Alessandro Milan, il brocchi brocchi brocchi brocchi brocchi brocchi brocchi dell'informazione. Oh, non c'è più Brocchi, dai, non c'è più. Adesso abbiamo il grande Montella e ci siamo risollevati alla grande, cari ascoltatori, come la classifica dimostra. Siamo al nostro livello, tipo ottavo, nono, decimo posto, campionato tranquillo e sereno. Allora, siamo qui a parlare di quello che raccontano i giornali, il tema politico del giorno, guardate un po', è la questione del referendum, delle polemiche sull'Italicum, la legge elettorale. Cambiarla, non cambiarla, cambiarla come chiede la minoranza del PD, come chiedono altre forze politiche, cambiarla come parrebbe dire Renzi. Anche ieri alla festa dell'unità a Catania, ha chiuso la festa nazionale dell'unità, dice così Renzi, però non si capisce se sono manovre o se invece davvero è intenzionata a cambiarla. Insomma, lo scontro politico è sulla medesima questione da mesi e mesi. Soprattutto lo scontro all'interno del PD con Renzi, che ha preso di mira ieri Massimo D'Alema in una polemica verbale che finisce esondando sui giornali. Renzi, farò una proposta per cambiare l'Italicum. La sinistra del PD rompe solo parole. L'attacco frontale a D'Alema, come racconta pagina 2 di Repubblica, vuole rubare il futuro del nostro partito. Uno spiraglio timido e contraddittorio da Renzi per la minoranza del PD, che si aspettava qualcosa di più e tiene dritta la barra sul no al referendum. Insomma, il siluro di Renzi a D'Alema, e questo ci ruba il futuro. Tra l'altro l'ha anche sfottuto sui libri, nel senso che a un certo punto a Catania nel comizio di conclusione della festa dell'Unità, Renzi ha letto stralci il libro di Massimo D'Alema dicendo: è un bel libro, leggetelo, anche perché non l'ha scritto D'Alema, l'hanno scritto Cuperlo e Velardi, ma sono le idee di D'Alema, ma Velardi e Cuperlo scrivono molto bene, insomma, questa stilettata di Matteo Renzi, che ha aperto sui giornali anche il giallo su chi abbia scritto veramente il libro di Massimo D'Alema. Comunque il tema è questo, che Renzi fa un'apertura sull'Italicum: faremo proposte, ma basta con la guerra del fango. Per la verità, La Stampa con Carlo Bertini racconta a pagina 3 che D'Alema è diventato il nemico perfetto per Matteo Renzi. E in realtà è un po' un bluff quello che fa il Presidente del Consiglio sui cambiamenti dell'Italicum. Il Premier, scrive La Stampa, non ha in tasca una proposta alternativa all'Italicum, né crede che un altro progetto possa ottenere un Parlamento, una maggioranza più ampia di quella strappata a fatica con la fiducia un anno e mezzo fa. Fosse per lui, magari punterebbe sul sistema del provincellum, udite udite, cioè il provincellum. Ma non lo brandisce, se non altro perché è molto probabile che non riscuoterebbe grande successo in Parlamento. Capito? È spuntato il provincellum come alternativa all'Italicum. E poi ce n'è un altro, questa l'ho letta sul Giorno, vi giuro, non me la sono inventata, perché mi accusano: ah, ma fai dell'ironia. Non me le invento queste cose, sono più surreali della realtà. Succede che nel PD, per il sistema elettorale, i giovani turchi propongono il sistema greco. Capito? I giovani turchi propongono il sistema greco in Italia, del sistema elettorale. Non me le invento, sono tutte cose vere. Ma sulla legge elettorale, l'articolo più interessante da leggere è, sì, se trovate interessante il tema, ovviamente, è pagina 5 di Repubblica, inizia a prima pagina, e cioè: l'Italicum verrà sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale. La data, ve la potete segnare, è il 4 ottobre. La legge elettorale bocciata dalla Consulta, ecco la paura che agita i palazzi della politica. Su ricorso di due giudici, Messina e Torino, la Corte Costituzionale, con il dossier in mano al giudice Nicolò Zanon, giudice nominato nel 2014, dovrà decidere sulla costituzionalità dell'Italicum. E Claudio Tito, a pagina 5 di Repubblica, racconta che ci sono almeno tre punti che sono a rischio in costituzionalità: il premio di maggioranza assegnato al partito che supera il 40%, e poi l'assenza di una base minima per accedere al secondo turno, una soglia critica di consensi, e ancora la questione delle preferenze. Insomma, il rischio è davvero che ci sia una bocciatura della Corte Costituzionale. Allora tutto questo discorso che stiamo facendo verrebbe a franare di colpo. Tra l'altro, lasciando la questione della legge elettorale, l'altro tema politico ancora ben in evidenza sui giornali invece la questione di Virginia Raggi, sindaco di Roma, le difficoltà, per usare un eufemismo, nel Movimento 5 Stelle nel comune di Roma. C'è da dire che c'è stata una giornata ieri di quiete. Raggi ha staccato una giornata, c'è una foto di lei sul lago di Bracciano. Deve scegliere l'assessore al bilancio, ma pare che adesso non ci sia fretta. Racconta il Corriere della Sera che sono numerosi i candidati, tra questi anche c'è, udite udite, lo leggo così, Nino, sentite come viene definito, Nino Galloni, tra l'altro dirigente del Movimento Roosevelt presieduto dal gran maestro della loggia massonica Gioele Magaldi, uno dei candidati, secondo i giornali, all'assessore al bilancio, che già ha bruciato il Marcello Minenna e poi Raffaele De Dominicis. Comunque, sulla questione Movimento 5 Stelle, gli articoli più interessanti sono due. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera racconta che nel Movimento 5 Stelle, dopo le polemiche di questi giorni, potrebbe esserci una svolta clamorosa, indiscrezioni che avrebbero il clamoroso, l'addio al direttorio, il direttorio di 5 persone che era stato nominato per gestire le varie problematiche. Movimento 5 Stelle, addio al direttorio. Grillo pronto alla svolta per azzerare i contrasti. Dopo il caso Roma, il leader vuole una nuova struttura. È giudicata insufficiente l'ipotesi di ritirare le deleghe. Grillo vorrebbe azzerare tutto. Dunque Di Maio, Fico, Di Battista, Sibilia e Carla Ruocco potrebbero essere azzerati. E questa sarebbe la mossa forse più clamorosa. E poi ci sono le polemiche per la scorta di Virginia Raggi, polemiche un po' sopite dopo che si è capito che in realtà è una tutela che è stata scelta dalla questura, dunque Virginia Raggi obbligata a girare con un uomo delle forze armate perché è stata pedinata nei giorni scorsi e mesi scorsi, e dunque Raggi sotto scorta perché pedinata, e soprattutto il Fatto Quotidiano che fa una polemica nei confronti dei giornali, i cosiddetti giornaloni, dicendo fango su Virginia Raggi che è stata prima pedinata e poi linciata per queste foto con la scorta. In realtà è una decisione, è una decisione della questura. Tra l'altro, a proposito di Roma, vi segnalo anche che sulla Stampa c'è un articolo che riguarda la spazzatura di Roma e come la spazzatura di Roma stia facendo ricca, ancora più ricca, Brescia, dove c'è un termovalorizzatore con il quale Brescia garantisce il riscaldamento, il teleriscaldamento di praticamente tutta la città, e trasformando ovviamente anche la spazzatura in energia e calore, facendo risparmiare sulla bolletta energetica e anche sulla Tari i cittadini di Brescia. E ora Brescia sfrutta anche i rifiuti della capitale, perché a Roma costa 40 euro a tonnellate trasportare i rifiuti fino a Brescia e 90 euro a tonnellata per farli bruciare. Cari cittadini di Roma, sappiate, sappiate questo. Va bene, ieri a un certo punto stavo quasi per pensare meno male che c'è l'Inter. Ma si sa, le partite durano 90 minuti. Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai lassù in classifica? Beh, insomma, lassù, buongiorno, bentornato, grazie, caro Alessandro, grazie. Buongiorno. Lassù adesso mi sembra un termine un po' esagerato, però insomma sto un meglio. Un po' più su, un po' più su. Ti vorrei declamare gli abituali endecasillabi del lunedì, ma con certo, il tuo permesso, ma anche senza, diciamo, certo, la verità. Soprattutto senza. Or vedrai gente più che altrove tanta riunirsi agli cancelli delle scuole a giudicarsi la riforma vanta levare un po' del molto che la duole. Perciò t'apparecchiamo un alfabeto che trovi al foglio 7 oggi sul Sole. Dell'istruzione il quadro avrai completo, ti saran guida 15 parole. Poi ne discorrerai col ministero nel tempo che verrà dopo i miei versi, però non trascurar mio rosso nero. Quegli altri fogli che non vadan persi, li dati sulle liti e la giustizia, e sui migranti e dell'Europa i crucci. Ci abbiamo lavorato con dovizia per farti meditar mentre li sbucci. Apriteli diari, ascoltatori. Domani e dopo saranno giorni fitti. Avremo due fascicoli a colori, l'uno sui master, l'altro sui diritti. A volte il fine è lieto, a volte tetro. Amaro in casa, dolce all'Adriatico. Nostra consolazione vedervi indietro. Eppur davanti ancora c'è gran traffico. Alessandro Milan, il ciaone al referendum dell'informazione. Allora, mandate sempre le vostre sigle al 349-238-6666. E poi, come vi ho detto, soprattutto se vivete all'estero, ci seguite dall'estero in diretta, scriveteci una mail che presto vi coinvolgeremo. È 24 mattino. È radio24.it. Per gli ascoltatori che ci seguono dall'estero, so che siete tanti. Allora, cari ascoltatori, c'è una serie di pagine sui giornali dedicate alle pensioni, perché nel programma di Rai 3 Presa Diretta, che andrà in onda questa sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini, che ha il dossier pensioni, soprattutto l'anticipo pensionistico, questa APE in acronimo, allo studio, annuncia cose importanti sulla riforma. Intanto la notizia principale, come secondo il Corriere della Sera, pagina 2, è che anche gli statali potranno godere, anche i dipendenti pubblici, dell'APE, l'anticipo pensionistico allo studio del governo. Permetterà infatti ai nati tra il 1951 e il 1953 di lasciare il lavoro 3 anni prima di quanto previsto dalla legge Fornero. Ha detto Nannicini, e l'intervista appunto si potrà ascoltare tutta questa sera, l'anticipo pensionistico è per tutti, indipendentemente dalla gestione previdenziale. Quindi vale per gli autonomi, le partite IVA della gestione separata, artigiani, commercianti. Nannicini non cita espressamente i dipendenti pubblici nell'intervista di stasera, ma dopo qualche oscillazione ormai è certo che la misura riguarderà anche loro. Tra l'altro tutti i giornali raccontano degli studi sulle pensioni, come si anticiperanno le pensioni, come questo impatterà sui conti pubblici. Ovviamente tutti questi sono studi, ne parleremo nei prossimi mesi, perché sarà uno dei temi centrali di questa ripresa autunnale. Invece uno dei temi centrali dei prossimi 60 giorni sarà sicuramente quello che succede negli Stati Uniti. Ieri era l'11 settembre, detto per inciso 15 anni dopo la tragedia, l'attentato terroristico del 2001. Solo che non ci si è concentrati molto su quello che è successo ieri nelle celebrazioni, non ci si concentra molto su chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, se Hillary Clinton o Donald Trump, ma ci si concentra soprattutto sulla salute di Hillary Clinton, perché questo è davvero il mistero che peraltro aleggia da mesi. Ci sono blog in America molto seguiti, ci sono hashtag, come si suol dire, per chi usa Twitter, cioè dei tormentoni, diciamo così, su che cosa ha Hillary Clinton dal punto di vista medico. Ieri ha avuto uno svenimento ed è stata ripresa da un telefonino un po' distante mentre sta cercando di salire su una macchina, abbandonando all'improvviso le commemorazioni a Ground Zero. Ma non è la prima volta, si è vociferato di questo uomo di colore che è sempre a fianco a lei, pare anche con una medicina che faccia effetto subito in caso di svenimenti. C'è una foto celebre di Hillary Clinton che davvero sembra in difficoltà a fare alcuni gradini di una scala, è sorretta da tre persone. E ieri questo svenimento, le polemiche, cosa ha Hillary Clinton. Ieri il medico, dopo le prime dichiarazioni che hanno parlato di colpo di calore, ha dovuto invece dire ha la polmonite. Lei si è affacciata dicendo sto alla grande, ma certo tutti i giornali raccontano questo. Malore per Hillary a Ground Zero, gli avversari vanno all'attacco, vacilla e sviene durante la cerimonia per l'11 settembre, portata via in auto. Lei dice sto bene, ma i medici è stata diagnosticata la polmonite. Anche per il giornale la sua salute è un giallo, la candidata alla successione è costretta ad andarsene dopo il colpo di calore, lei dice sto alla grande, ma in realtà è chiaro che per una donna, una persona che corre alla carica più importante del mondo, la presidenza degli Stati Uniti, ora c'è anche la questione di coloro che dicono deve rendere nota, deve rendere pubblica la sua condizione di salute. E questo è uno dei dibattiti che c'è negli Stati Uniti. In tutto questo, per restare sulle notizie di carattere internazionale, vi faccio notare che in Francia, e questo è un articolo di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, pagina 15, in Francia hanno inaugurato la prima struttura per, diciamo così, deradicalizzare coloro che, cresciuti in Francia, avevano abbracciato l'islamizzazione fanatica e si erano affiliati allo Stato Islamico, pronti a colpire. Ebbene, è un bel servizio di Stefano Montefiori che racconta cosa succede in un castello a Beaumont-en-Veron, dove vengono raccolte appunto queste persone, sono obbligate ad ascoltare ogni mattina la cerimonia dell'alza bandiera, la Marsigliese, quindi l'inno francese. Sono obbligati a stare lì, vengono appunto deradicalizzati. Ecco, uniformi, ipoterapia al primo centro di recupero dal jihad. €1 milioni l'anno per il progetto voluto dal Premier Val, ma per soli pochi ospiti. Qui vengono recuperati, o almeno si cerca di recuperare in questo castello della Loira, le persone appunto che avevano abbracciato la via del jihad. E lo trovate questo articolo sul Corriere della Sera. Non so se invece vi ricordate, di recente ci eravamo occupati anche con Oscar Giannino del fatto che nell'Ogliastra, in Sardegna, ci sono moltissimi centenari e c'è una società italiana con sede a Londra, la Tiziana Life Sciences, che aveva rilevato i risultati delle analisi compiuti su 13.500 sardi per cercare di studiare come mai ci sono così tanti anziani e mettere a punto anche delle ricerche scientifiche per capire, insomma, per contrastare le malattie. Ora, noi ci siamo occupati di questa vicenda, ma c'è un giallo. Come racconta la stampa, si è scoperto che sono state rubate le provette con il DNA dei centenari dell'Ogliastra. Spariti 14.000 campioni usati per studiare la longevità dell'Ogliastra. È un colpo da professionisti, dice la procura. Gli anziani ora accusano, qualcuno vorrà fare affari con i nostri geni. In ogni caso la Procura della Repubblica di Lanusei ha ricevuto la denuncia, ha aperto l'inchiesta perché sono appunto scomparse dal frigorifero, proprio dalle celle dove erano contenuti le provette con i DNA di questi centenari, queste persone dell'Ogliastra. Che è successo? E chi lo sa? Lasciamo stare la Gazzetta? Peter, che dice? Peter Biscapè, la Gazzetta dello Sport. Anche quest'anno siamo riusciti nell'impresa, la terza giornata, di considerare già chiusa la stagione. Neanche alla seconda giornata. Alla terza giornata, neanche, non so, a metà ottobre. Al 12 di settembre dobbiamo già pensare all'anno prossimo. Forse in Serie A. Va bene, noi del Milan, Va bene, intanto la carta costa. Allora, l'articolo più inutile scovato sui giornali è questo. Sulla stampa, pagina 27, profumi, candele, cibi bio. Ecco tutti i capricci delle rockstar in camerino. Volete sapere Adele, cosa vuole in camerino quando arriva? A parte qualche banana, un pacchetto di Marlboro. Volete sapere Rihanna, che cosa vuole quando entra in un camerino? Cosa pretende quando entra in un camerino? E Beyoncé, che cosa vorrà in un camerino, Beyoncé? Ma chi se ne frega!